Sono pure per fare colazione. dato 13 radite magiche. Ehi, devo spiegarci qua vicino. Invece io sono un abusino così. Me lo posso permettere? Se io concessione non ne ho, cioè sono una concessione per i cavalli. Mi racconti, sì. Il figlio sì, un capo di Roma, vero Natale? E allora, me lo dovete fare io la concessione per essere tranquillo. Perché la mia era stata ancora qua, anche che me l'ho fatta nuova qua. No, che forza ci vuole la concessione? Che forza ci vuole la concessione? No, Marino, non c'è il microfono, guarda appunto, vedrai. Due città in PMR, no? Non si capisce niente quando parla. Ah, però non vedo di voler apposto. Bisogna che... Io non chiedo se vuole passare domani a Dimitri. Così lo sistemo. Viene con l'apparecchio di un'unica, cambia la capsula e... Tutto il problema. Come ho fatto con l'origine. Cambia, era tutto impastato, la modulazione, no? Non si capisce, non ci vedi. Ah, gliela cambio, gliela cambio, non ti può cubà. È andata a Pignara, non sentite? No, non ho sentito fare niente. Anzi, ho sentito ieri un altro messaggio perché c'era uno che voleva un baracchino. Sono a spendere 70 euro, ho detto, cazzo, quando ho visto l'apparecchio, ho detto, poi 120 euro, guarda, se avevo preso lui, l'avrei preso io, quello là, io, solo che sono di un mio e non lo voglio spendere per il momento, al momento. No, quello era un affare. Quello che stava andando, il GPX con frequenzimetro. 120 euro regalato, ma l'ho fatto pure, No, ne ho baracchini, no. Io, beh, ne ho baracchini, c'ho questo, c'ho quelle... hai visto come ho modificato con le 4.000, io ho messo la macchina del Superstar 2009, è un bombo. Infatti quella foto che mi hai mandato, un raggio compreso con baracchino era, infatti mi sembrava un Comex. Tutta la macchina del Superstar, infatti. La macchina del Superstar 2009 è quello mio, in pratica la macchina del... Il mio Superstar 2009 l'ho tolta e ci avevo messo quello del tornado che ha fatto questo. In pratica rimaneva là, invece la macchina del 2009 l'avevo staccata e conservata. Ho fatto bene. Quando Marco mi ha dato quello come scorturinato, non ho fatto altro che gli staccava la macchina del scorturinato, ci ho messo quello del 2009, sono precise. Bello, veramente bello come apparecchio. Va bene, così si è staccato la nera esterna, il metallo ha lasciato quella sua originale, con la scritta ecco, va bene lo stesso, non è che succede il filmone, infatti che c'è fanno di figura quella macchina del Superstar 2009 originale, perché è veramente bella, la sua originale, quella bianca. Si conferma, è così, certo che sì. Ha un figurone fa, è bello. Questa macchina con il 4-1 l'ho conservata, c'ho in garage conservata. Quindi va bene adesso? Luglia, ma faccio una cosa, non può curarmi, vabbè, quello già ce l'ho, una cosa metallica della Intec, faccio lo scrivo, sono di scrivere sul pezzo a dietro, adesso l'ho a posto, così lo faccio modulare anche quello, adesso adesivo tutto, non è più come prima, ma è di rifare la parte metallica con i ripartiti, ma se faccio la foto di quello che c'è Marco, me la faccio fare una indica, la faccio fare di adesivo e gli applico dietro, e divento modulato 40 canali, e ho recuperato l'apparecchio per me quando voglio, per dire, ma siccome non me ne sbatte niente di venderlo, ma lo prendo così com'è, e me la posso installare in macchina, capito? Poi gli affari che devo telefonare alla mia moglie. D'accordo. Io gli agli venni, attari. Che c'è. Come? È bara. Stamattina stavo parlando con Pinuccio, con un certo moro. Dice c'è aveva problemi all'antenna. Ci vediamo messo a posto. Come lui. Secondo. Ho chiesto a pezzo. esatto. Diciamo, quante volte sta andando? Insomma, va minimo, intorno ai 15. Se la metà volta sono 30, 30, 40 watt. 60, sì, si deve attaccare. Va bene, va bene. Natali! Oh, già! Si è fatta in me. Io stavo telefonando a mia moglie, vedo che si inizia le sigarette quando torna. Io stavo aggiustando qua e poi magari mi dovessi morire, mi chiederò di rifarci. Ehi, dove va a ricarici? Da Ian avrai attaccato da vacchino. Ehi, ma mi tocca vestirmi, questo, quello, oh, sono gli gabbini. Ehi, così è riuscito. Però già mai ti ci ha portato bene. Ah, no, quelle volte la denti si è in pigiama. No, che qua cazzo ho fatto un bel. Meglio, meglio. Certo, ma magone, c'è di fronte il tabacchino. Ma quanto male fa neanche 2 minuti? Oh, 5 minuti sei sceso, ci abbatte, quanto male va tutta e via, ma ti devi, cosa dai, ci abbatte, lo guardate. Ma fu scema, la prima volta non viene qualcuno. A questo giorno perché voi potete se rubate il pigiama e stavatti. Vabbè, se non fatta male va tutta, però non ci abbatte. Guarda che io con l'ematologia sono uscito in pigiama, al bar, con il vicino di San Pietro, e ci abbiamo pigliato il caffè e la birra. In 5, figurati tu. Vabbè, anche se Antonello molto pompa, Natalino no. Figurati, io ho no, 5 spazi la parte, siamo usciti in cielo e ce la facciamo fare in cielo qui dentro. Abbiamo preso le scale, abbiamo fatto del primo piano terra, la lì, e abbiamo fatto la discesa, le sono già dirette, la linea di San Pietro, c'è col bar che adesso poi ha chiuso. Siamo stati lì, che ci ha tirato tutta la fede, ci ha tirato, io mi ha tirato una birra, ma sono venuta. Poi a mezzogiorno siamo rientrati. Ho visto, non ho detto niente, non ti pigiama, chi c'è che è ingessato, c'è ingessato, pieno di cose, di come si c'è, quello che diventano di gazza, ci eravamo ingessati, ma Lucia, va bene allora. Io come sto? Allora c'è 7:15, partito, poi stasera 8:30 c'è la partita, c'è la biglia di luce. E la tabiniera non si è fatta sentire? No, non si è fatta sentire per niente, quel pipistrello che prima state sempre in radio, a voi è assenteista. Allora, assenteista è così. Allora, sarà in giro con la mamma a fare compere. Ah, è giusto che tu deve fare compere sempre. Allora, dovete comprare. Se non compra non dorme. Ma è caldo, voi ci sentate, poi è fatta nuova, fate un giro, ma c'è caldo, ma è caldo. Sempre al Brico, al Tanite, a Città Mercato, però già vado a fare un gioco, comprare l'acci dei botti. È brutto, io gli altri bilocchi, io se parlo mi vado, perché lo stupo in farmacia e basta, a dove andare, c'è un vicino, da vaccino, a Cicci, qualche volta mi gioco €1, €2, quello che so, allora, ma io non lo dico mai, no, ce ne butto su dire queste cose, tanto non ci credo, ma la fortuna, se non te ne zappi. Ok, non te ne zappi, magari in questi giorni che vai dove lavori, ti fermi a fare, ti ascolti la persona mi resta, mi chiama e dici, cosa fai, te lo porti a casa, quindi ti metti a stare, e fai, come si dice, tu stai per 20 anni, quindi telefoni al tuo principale, ci ascolti, se lo vai a fanculo, che me ne sono andato, non si fa così. Dovevi andare a lavorare, capito? E ti siedi. A lavorare ti siedi. Quello che ti dico, ma oggi non andare a lavorare, mandaci a tua sorella, che io sto qua seduto. andato in tronco. E c'è quale motivo? Ah, dai, no. Ma se già mi pago io così, dice, mi manca un grado, già mi pago io. Non si preoccupi. No, è la soddisfazione. Invece, se la sigaretta è un vizio, perché non si può fumare, capito? E poi invece andare in bagno di biscio butta la scrivania. A vedere che faccio a Martini. Guarda che più di uno ha vinto così mi pare che anni fa, da te vinci, ma come sapeva, sapevo così, per dire, tanto come resto. Arrivo a casa, questo mi dice non accidente. Ha pigliato il mio vento perché si è licenziato. Più di uno l'ha fatto, siamo a tre ragazzi, ci pare tutto. Ricchi si nasce, caro Antonello, non ci si diventa, ci si diventa solo rubando, ricchi. Già lo so, io già sono sfortunato per te, purtroppo. Pazienza, almeno sulla risolta, insomma. Vabbè, non ti siamo uguali. Così è. Sono 40 anni da Valiene. E allora cosa? Questo di casa si vive tranquilli, non ti manca niente, ma non hai niente però, capito? Sì, già lo so, infatti, vabbè, ci accontentiamo di quello che abbiamo. Oh, Tartarino, ti ho ordinato il 7003, lo nuovo e piccolo. Non parlano molto bene, non è grande quanto è un 140, un po' più piccolo del 140. Beh, ma è l'M, ma funziona lì. No, conosco, ma non mi interessa. Non mi interessa, per averne uno piccolo, capito? Per averne uno piccolo, sono Matteo Lonti, ci vedi a Cref, un piccolino. Non parlano molto bene, tanto stavo parlando con uno accuratamente, stavo usando questo 7003, con l'SM20, ma usciva una canonata. È bello che tu si immagina, sta un bello radio quello. Tutta digitale, SP completissima, bella metà colore, display colori, molto bella. E va, più o meno, io penso che sia quanto il 275H, quello della Inco. Così, dalle dimensioni mi pare sia così, una cosa del genere. Forse qualche quello, non ci avevi tu. No, che è più grande di quello che c'avevo io. Sì, è un po' più grande della, di quello lì, ma non molto, più o meno, come la, un po' più piccolo secondo me, del 275A. Adesso vediamo una tariffa, un problema. Ma vedete come fa. Andrà bene sicuramente. Ma cosa dimmi fai di tutti i vari? Signor Idratica, tu è all'ampasse di Rinaldi. Hai ragione. Io beh, era piccolino, c'era bello. Andiamo e comprate, intanto tu non puoi farlo fuori queste cose. Visto che non li uso, lo farò fuori sicuramente, ma ne tengo questo, 4,40, quello lì che è piccolino. Ehi, infatti, molta gente ne ha due soldi, HF, due di ognuno, compreso, pare che due riserve. Però più di lì sono anni, ingredienti. Ma voi vi sono chiedi che cazzo giustamente la mia collezione. E gli dici qual è la collezione, la serie collezionale, io ne ho due, lo stesso HF è nata lì, ho pensionato. Ne avevo quattro, prima due li ho venduti. Ne ho due nuove. Ma se questa è piaciuta così è tra, no, a mano, me la piccia. Ma se funziona bene, me lo userò un M. Vediamo. Non so se funziona bene. Infatti. Se funziona bene qua, perché sono concepite per andare in banda laterale, per quelle rare. Ma vedi, 857 funziona bene, eh? Io, vabbè, con la modulazione che ho, c'ho un MC60 io come semi, come ho capito. Ho un MC60, quindi dovrebbe spingere, se funziona bene. In banda laterale? mette spinge qua. E quello è il discorso. Ma no, vabbè, ho chiuso il 440, cazzo di una puzza. Quelle sono radio per altre cose. E mi fa il 440. Guarda chi non si telecontino fa bene. Giusto per fare due chiacchiere. No, ma intanto poi si scrivono a spedisco per prefetta Bianconi, ho già chiamato. Farò revisionare, farò mettere tutto a posto, poi lo venderò. Però lo vendo garantito a posto, capite? Perché così non posso dare. Si chiuda. Come scalda, un pochettino si spegne. Non so perché. È nuova nuova. Esteticamente lei nuova nuova, presentabile. Per gli anni che è molto, molto nuova. Metto di mandargliela però la prossima settimana perché adesso è pieno di lavoro. Prossima settimana che la spedisco. Vediamo, lo metto a posto, poi la venderò, però quando si vende a posto. E infatti, e avrà qualche condensatore in più di sta lì sull'alimentazione, magari, e quando scalda le cose mancano l'alimentazione si spinta. Tutto si spegne parlando, ho fatto un sacco di lavori in quella, c'è anche il frequenzimento nuovo. Sono fili consumati, saldature sono già mezzo andate, quindi bisogna mandarlo, farò tutto riprendere, una bella revisione completa, se vuole come salto di fargli cambiare, metterlo a posto e poi farò, almeno lo accendo via 440 e mi tengo 430, non lo so, vediamo, una la devo dare, non posso fare la collezione. Certo che qua è 30, c'è anche la cosa per l'esterno, quindi non cambia niente, tutti i blitti sono però, mentre questo c'è ancora per automatico, questo mi è costato un patrimonio, mamma mia, sto preso a Roberto, però non era, era funzionante, sì, ma tornava a Cindy, faceva tutti i puntini, tutte le cose, no? C'era una ricezione di trasmissione, mi inchietta un quarto d'ora, 20 minuti ora di attesa prima che si riprendesse, allora l'ho mandata, ma l'ho fatto tutta revisionata, che sto speso 250 euro, tra viaggio, tutto, manovra, tutti i pezzi, quindi se la vendo ci rimetto, capito, conviene, conviene tenerla, basta. Giusto così per fare le chiacchiere. E beh, tonnello molto pompa. Tu per quello regala, ma non ci metti nulla. Non te la puoi pigliare come devo chiamare. Tu hai comparato che l'hai venduta due a radio. E si è fatta, pensavo, non l'altro. Ho fatto già con la... L'amico curante. Ah, l'amico curante, sempre. Tutti coordinati, se no, se sbagli poco a poco, tanto viene fatto di fronte. Ah, sì, sì, bastano in tre. Uno giù, uno al primo e uno all'altro piano. Una volta che ne è stata nella stanza, non andavi a lungo, non ti preoccupare. E salgo sopra e mi metto subito la branca di ancoraggio. La stanza paloppava, lì non va da nessuna parte. Capito, mi hai? Non me l'ho più assoluto. Bisogna stare attenti, è un lavoro molto, molto delicato. Bisogna fare le cose con la testa, piano piano. La mettiamo a posto, non ti preoccupare. Tanto non ce ne vogliono tirare, non ci vuole niente. Non è che metto i piantoni o nella staffa. Ed è fottita, capito? È fregata. Perché siamo uno giù, uno su, uno all'ultimo. Per mantenerla si mette la staffa, la zanca che deve andare ad ancorare il palo del sostegno, lì è fregata, a posto. Sai cosa che mi preoccupa? Stavo guardando i radiali, sono da 1,20 m come quelli della Mantova, e gli toccano al muro per salire lassù. So che la via di sotto è così, quello è il problema. Prima di metterci la lotta alla tappa di giù, bisogna piegarla e non passare il tetto del cornicione del tetto. Una volta che è passato il cornicione del tetto, allora sì, il palo non è più dritto. Se noi gli spieghiamo per forza, forza. Il discorso è quello lì, è claro. Metto la porta una volta che dentro la staffa, non lo fa niente. Ci sono lì di fibra e non succede niente, non si rompono fino a far scavalcare il cornicione. È un bel casino. Un bel casino. Se non bisogna evitarli, bisogna evitarli dopo la via, una volta che è messa dentro. Capite? La finestra, lottando, attaccando i radiali, come sono? A filettatura o come sono quei radiali? Non li conosco. No, sono un cazzo sotto la faggetta, quindi bisogna applicare dentro i vizi, prima ci metti un radiale, poi ci metti l'altro e poi l'altro dall'altra parte. Ci sono tre vizi, capito? Infatti che fanno una specie di triangolino di forma, capito? Sta pensata così quella con quei radiali e non c'è altro metodo ma non che non riesco a salire sopra il tetto io e da qualche posto la passo a fianco al limite che è per mezzo se posso salire su una volta che mi sono fatto il palo ho fatto dove pensare perché appoggiamo il palo alla, come si chiama il figlio di la polizia per la mollo a posto, capito? E la installi dentro alla, come si chiama? Andiamo a vedere questa cosa della diade. Se viene bene la finestra di coso di quello che c'è su, ci avvitiamo da lì, capito? Non c'è un metro, sarà un paio di metri, si tira su da lì. E vabbè, bisogna sprogettare questo sistema per i radiali, che per l'antenna non c'è nessun problema. Non c'è problema. L'unica cosa che andava bene era le cose fatte che si allungano, c'è presente quelle che prendono che agganci il palo, una volta che attacca il palo, col figlio lo sposti. E tipo di sebasto 64 cm poi quando è più avanti, la cosa del genere, quella che andava bene. Non ho fatto altro che montare i radiali, come dici tu, e poi ho spostato le due gaffe, una su, una giù, e ho lasciato spostate così, è stato un po', un po' più mosso, il problema che devi distingere il palo, è un casino, io ci rimane in corte, ci vuole una braccia lunga, ci vuole una persona che è lunga minimo 1,80, come già potrebbe distingere da questi calcolamenti bulloni. Io sono corto di braccia, purtroppo. Io un po' non la vivo. Tu sei corto di braccia, già, già ci era, già. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, già c'ho... Già arrivo lo stesso a stringere la diare. C'ho il cricchetto con la prolunga, voglio... ci arrivo. No, ma non non è quello il problema mi sta sorgendo per quando la tiriamo su, è vero, perché siccome bisogna montarla a terra e poi agganciarla, tirarla su, elemento per elemento, e la radiali toccano il muro, capite? Però sono di fibra, cosa c'è? Non me ne ha fottuta, già non si fa. Sono di alluminio, lunghi un metro, insomma. Lunghi un metro? No, non sono 1,20 m. Un metro sono 1,20 m. Capito? 10 centimetri entrano all'interno della vasetta, quindi. Sì, e loro si mangia giù di tiro. Ci piacciono i due e l'altra strada, il radiale è quello che va al muro, ci piazza l'ultimo, e a stedì, già va bene lo stesso. Io ve lo vedevo giù all'inizio, non è problema, se non mi... Se lui si occupa pure con la scala e arriva un posto, si sia la... Ci va a 100 euro, e facciamo anche prima, in 10 minuti per stare all'antenna, non è che ci voglia soltanto, ci vuole uno che... Andiamo là con l'amico mio che c'è lì a carica, che c'ha le sale aeree, che dove quanto mi vuole, mezz'ora, con l'autista, lo facciamo, si fa altro che deve pensare, farlo lui direttamente in terra prima, si installa, poi c'ha la sopra con la sala aerea, quindi mi dice che ha avuto un po' di coso, l'antenna, ecco, come già a posto. Ma la cacciettina è messo scendendo, quindi ci vuole molto. Non ce ne sono le scalerie che abbiamo modificato le staffe, quella di su no, non ci serve la staffa, quella ce ne sono come ancoraggio al passaggio del piantone e basta. La staffa si usa quella più bassa, capito? Quindi non ce ne sono le scalerie, assolutamente. Non ti preoccupare, il problema è solo i radiali, pensiamo che erano radiali corti, capito? Non mi sono posto il problema ai radiali, pensiamo che erano quelli corti, tipo quelli della di quella rua Iumi, così, da 40-50 centimetri. Capito? Ma magari mi ha detto che non lo so, adesso vediamo, facciamo arrivare il materiale, poi vediamo cosa, qual è il problema. Penso comunque ce ne sia il problema. Sì, vabbè, quando ti arriva il materiale come vediamo, no? E a Tobrigliano ce ne so, se no passo da parte a fianco, non costa niente. Una volta che il pancio lo sopra, bisogna installare la cosa e se la bianco. Non costa nulla, basta aver aperto il fiore. Io, come fa un tecnico di là sopra, se ne installa anche la TV? Da qualche parte passano. Quindi, non lo so, questo lo sa un carino, ma comunque io ogni caso mi porto tre radiali in fibra pure. Non so prendere le gene e scrivere, visto che non sono affrettatura, che sono a stringere a coso, a come si chiama, a cavallotto. Capito? Mi tolgo quelli in alluminio, ma metto quelli in fibra e radiali. Quindi posso tirare sull'antenna e non si sfasciano. Che così vuol dire? Hai lanciato un cavallo più grande che vengono tutti i cavalli per lo stesso, perché i buloncini mi sembra che sono a 4, insomma il collo male, non sono da 8, sono a 4, quindi ci vuole un cacciapite e una pinzetta per poter stringere il coso, perché ce ne sono 3. Vabbè, poi ti faccio lo schema a crasso, c'è un progetto della energia, 5 ottavi. Vabbè, non penso che sia un problema comunque, non vediamo, vai, ci appagliamo quando arriva, poi ci pensiamo. Non sto guardando quella radiale, come dice qua, io però non li trovo qua in questa stanza, sono due portati su, ma bisogna anche andare su, per iniziare a controllare tutto il baravano. Vabbè, quello sì. Già va bene. Oh yeah! Ciao ragazza! Ma è differente che... Ma la staffa di giù quanto sei distante dal muro, non te lo ricordi? Guarda che quando arrivano alla staffa i radiali sono già fuori dal tetto. Infatti. Sì, non fa giovane. Sì, ma infatti, sono già fuori, perché si tira prima su e poi si innesta nella staffa che c'è nella finestra. Sì, c'è nel problema. Prima la monimosa dritta, la tiriamo su e la appoggiamo con le radiali già dentro il tetto. E la vuoi rimuovare un cazzo di furino. Yes. No, la innestiamo il piantone che c'ho io, lo innestiamo direttamente nella staffa, anche lì. Poi uno nella finestra da te, uno nella finestra su, si tirano. Ma non viene più male così. No, ho detto, una volta che abbiamo superato la mantovana, che i radiali sono fuori, si innesta nella staffa che c'è della finestra. Ehi, quello sì. Esatto, però uno deve andare su da coso, capito? Per tirare, l'altro tira dalla finestra, capito? Una volta che i radiali sono fuori, allora si innesta nella staffa e si mette la cravatta lì nella staffa, palo, capito? Eia, ma c'è già Cesare lì, che c'ha di fare lui, che abbigliare tu, da voi uno, da me. Vabbè, c'è Cesare anche infatti, c'è un tiro su a lui, uno da te e uno spinge da giù, capite? Tanto io ho la scala da 4 metri, una volta che dove sono fuori i radiali, io ho centro la staffa e stringo. Infatti. Se ce l'avevo una buccia, guai. Solo che mi sa che non potrò più modularmi quando ce l'ho una grande. Perché? A chi no che... Boh, si occupano di corpi rossi. Ma chi? Gente che parla in altri canali, anche se sono distanti da qua, mi provocano QRM, forse. Ah, ho capito. Sì, vabbè. Tu affutti di... Ti preoccupare per quello. A chi si mi abbassa me, quando tocca a me, allora mi si dispiace, ma non mi comprende niente. Infatti, rispetto per rispetto, capite? Io quando ero a Pascoli ce l'avevo tutti attaccati. Rispetto ce n'era poco, e allora io tiravo su il dito. E allora vedi che le cose cambiavano, capite? Quella è l'ultima soluzione, se non fatti un danno vi risfratta, capito? Tu adesso che stiamo a antenna pure, vediamo. Anda bene, da! Propagazione, se non è Laura, mi sta portando. Così è. Ciucchi. Attaccalo di là, Natale, attaccalo di là. Ecco cosa attacco, quindi si antenna. Si attacco quando la gente non anna e succede gasotto. Sì, qua stai facendo watt in più, pensavo che sia, non niente. Uscivo io sempre con 100 watt in seri corti. E prima attaccavo 600, quando abitavo grande, finalmente. Mi chiamavano, parli, abbassa, loro mi stava a pompare. Non mi c'era più nessuno. Cosa io, Antonello, non lo capisco quando parla Clark. Al QRM mi domanda indica. Non li sento allora, ma sento il QRM, il rumore che fanno. E adesso mi senti? E io adesso sì. Adesso mi sono avvicinato al microfono. Tu parla sempre così. Così almeno ti capisco. Ma io non ce l'ho. Se tu vieni qua ti metti a ridere. Ma a me mi senti, Natali, bene oppure ti crea problemi? No, tu non mi crei nessun problema, neanche Antonello se parla vicino al microfono. Io lo so, c'è così a sorrisi. Purtroppo Natali è così, non te la prendo, l'ho ucciso così, allora va bene così. In colpi che si lascia in biglia. Infatti, occhio però a me, da dove? Infatti non ti mancano il video, non lascia che sia quell'antenna che crea quel problema, con l'altra maniera non lo fa, capito? Non ti preoccupare, non ti preoccupare. No, già non mi preoccupo io, no. non sente, non vede, non parlo, e non ci vogliamo manco entrare in una discussione del genere, che non ha tutti manco valantica, portando un mezz'ecchia, anche se mezz'ecchia, ma con un'avanza. Andà bene mera, meno a tagliare così, basta un dipolo, invece un dipolo ti vedi, fatto con rame, e lui si fa l'ascolto, con un apparecchio caldo e con l'altro con il cuffia scuro, come facevo io, quando vengo a Claudio con l'Antonio Globo, io a Claudio manco lo sentivo, manco morto, figurati tu, perché non mi sono divertivo io a piazzarla, lo dicevo a tutti, siete come che parlavo con l'Antonio Globo, figurati tu, figurati tu. E Claudio non è che stava a 100 watt, no, stava di più e mandare a Antonio, per un paio di mesi, dopodiché era tutto finito. Già lo metto un gancio per salirci qualche dipolo già, con la corda, già pronto. Ce lo sto dicendo, ci vuole molto fare un dipolo. L'avevo fatto io, anzi l'avevo fatto con tutto 20 mesi, se ricordi bene. Con le usciva benissimo. Dicevo tranquillo con un passaggio, dicevo, era corta, bella, la giravo come volevo, come si chiama, adesso ci messo quella della VU, la VU va bene lo stesso, come antenna, quando voglio la giro, hai su tutto da Monteoro, e ne è tranquilla, perfetta, esce bene. L'altro invece l'ha lasciata nella letto in riserva, nel caso non posso entrare qui in camera, non l'ha messa con la parete di là e la uso di là, molto per dire, anche se non uso quasi mai il buio in camera da letto, capito? Adesso mi faccio un po' in seguito un commutatore, anzi con la tua c'è, metà questa vena qui, da questa camera, me lo porto apre la porta, cioè con la ritrovando c'è con lo specchio di fronte, guarda lì, ti faccio altro se lo lì, ti butto il muro della camera da letto, un pezzo, e la letto ti faccio altro se lo da letto, la bella sono alta, che non mi senta nessuno, e non puoi parlare nessuno, e così a costare 15 metri di cavo, io sono andato 5 o 6, in quel metro, ho girato 113, e ho fatto 13, davvero, e uscivo fuori, mi sentivo bene le gaffe, il pano, faccio un bel impianto, in modo da toccare un momento più piede. Andrà bene l'era, e io andrò, no problem. Adesso c'ho 12,58, mi segno 15 metri, figurati tu. Non posso tenere la presa aperta a livello d'estate con le leggi 213, capito? Il cavo passa in pratica con la finestra della mansarda leggermente aperta, siccome io nemmeno voglio lasciare i posti alla finestra qua. Quindi ci trascotterò tutti e due i cavi di antenne direttamente lì in salone. C'è il foro già pronto, devo passare avanti la TV, ti faccio passare lì, poi faccio un campo in gesso al limite, li metto un pannello un po' vicino in modo che sia insonorizzato, e mi faccio altro fino di la legge. Questo è il campo. Andrà bene l'era. Forse l'antenna mi è troppo bassa ed è per quello che si ha detto, anche quello di pesce, anche perché non hanno grandi potenze, la verità è sono abbastanza tranquilli, è che sono molto vicino, quindi è per quello, poca massa, antenna, capito? Adesso vediamo la cosa che siamo là, non ti preoccupare. Vabbè, io vi lascio 10 minuti, vado a portare il cane. Ok, ci sentiamo. Porta, ci c'è la porta. Cosa me la fa la porta? Capito, cos'è? Già non sono ancora Filippo. Sì, invece a tu mi devo scuotare giù perché non hai fatto il coso. Il chip ancora, prima lo porto, adesso non mi ricordo dove lo fanno, qua a Magistero mi sembra non c'è più niente, prima lo portavo lì, e sto facendo un altro, se adesso mi sembra che bisogna portarlo su a Calancuri, così è, per il chip. fanno ai canile gratis. Nella sala Perusi, lei è vicino a te. E dove vicino a me? Vicino a me. No, adesso. C'è il canale, il canile comunale, c'è. E lì mettono il chip gratis. Ma sarebbe Perusi dove c'è canale cui? Canale cui. E via. E io già mi faccio accompagnare a Giovanna martedì o mercoledì, così mi viene tuo chip, sei sono tranquillo, per l'altro giorno, i vigili urbani hanno intercettato a uno, hanno intercettato, perché non c'erano il chip, quando hanno fatto l'esposto, perché tutti i parcheggiano in mezzo alle barre, quando c'era lì, hanno capito, hanno fatto l'esposto e quindi adesso sono venuto a girare le barre di mattina, prima mettono le multe e poi vado a bere. È meglio che glielo metti. Io ho pagato per non andare lì perché il cane aveva problemi e volevo che tu mi fosse vaccinato e tutto per portare. Poi l'ho portato al veterinario e ho pagato 30 euro, ma li mettono gratis una volta al mese, o sono più giornale quando li mettono. Tu guarda, sono formale, quindi... Lo dice Giovanna, lì mi sono la macchina e gli dice quando il giorno che la mettono, va a essere per mettere questo tipo di... Beh, infatti voglio fare così, là, aspetta un secondo, già dentro subito. E via. Oggi ti sento, cosa vuoi? Sono con un'antenna di macchina per il momento, ancora non mi è arrivata l'antenna, qua non hanno nulla, né capo, né antenna, anzi l'antenna già ce l'hanno, solo che mi hanno sparato un sacco di soldi. Anche io sono con l'antennino di macchina, mia. Quindi non sei l'unico, dai. Comunque oggi ti sento che c'è meno QRM, con chi sei? Sei solo? Per il momento sì. Dovrebbe entrare Claudio e c'era anche Pomponi un poco fa. Anche Alessio, ho visto. Qualcuno c'è ancora. E molta gente oggi è sentita perché oggi è sabato e sarà mattina. Infatti io accendo un attimino, io tra un po' esco anch'io, vado. Siamo fuori con degli amici, da. Ok, io invece non mi sono mosso di casa oggi, perché ho fatto uno strappo e mi fa male la schiena. A lavoro? Magari. A casa me lo sono fatto. Ma sei contro tu o tu sì? No, disoccupato. Sono da maggio che sono disoccupato. Non si vuole invertire questa rotta, dai. Ancora pochi posti di lavoro. Sì, un macello. Manco con la patente che io metto. E prima cosa facevi invece qualche anno fa, tipo 20-30 anni fa? Prima facevo il pasticcere, solo che adesso non lo posso fare. Ecco, io mi ricordavo quello, infatti ero rimasto fermo a quell'epoca lì. Ecco. Andare. Non ce n'è, no. Vediamo adesso che inizia la stagione calda, magari riesco a trovare qualcosa. Ma speriamo, va. Anche per i nostri figli, perché non si vede niente per questo orizzonte. Ma c'è, sono cambiato registro qua, guai. Sì, si stanno mangiando tutto, bu. E non hanno vergogna, non hanno vergogna. Sono di lacri e basta. Ma volevano toccare la pensione, uno che ne perdeva 70.000, mi sembra, all'anno. Volevano togliere 3.000 euro in 3 anni. Allora è sto al vento che si prende, quei 1.000 euro all'anno li tolgono. Ma già, non hanno neanche vergogna, io ne avrei avuto vergogna, forse per quello che non ho mai fatto i soldi. Allora, sono convinti per loro i diritti acquisiti non si toccano, invece per noi lavoratori ci possono maltrattare come vogliono, ci tolgono tutto, indennità, quello che avevamo prima qualche anno fa, oggi non ci abbiamo più nulla, ci hanno tolto tutto. E poi il bello è che non so come fanno a essere migliori, mio padre ha lavorato 40 anni e poi manco di più di 40 anni e poi manco della pensione, che ho visto anche molto prima. Allora è lì che ci vogliono portare, proprio passare dal lavoro proprio alla tomba, guarda. E i soldi nostri se li incassano loro. Ma se no come fanno a ingrassarsi bene di dietro questa gente? Loro fanno 4 anni e vanno in pensione, possono non lavorare più fino a 65 anni e poi gli danno la pensione. Se poi ne fanno 2 legislature, addirittura vanno a 60 anni loro. Ma con una bella pensione, non come la nostra, no? Oh, chissà se ne vedremo noi pensione. Davvero, è un miraggio. Faccia il posto del divieto, altro che non hanno nessuna vergogna, guai se li tocchi di salutiere i malattotti che hanno. Ciao Cra, com'è mi? Se attraverso a portare il cane, tra un po' ci andiamo a cenare, aspettiamo che faccia un po' di buio. Non è entrato nessuno? C'era Natalino, stavo un po' accordando, sto trovando dei pezzi, ogni tanto ho trovato uno spezzone, quindi ho piazzato anche l'accordatore, ho trovato questo microfono, e mi senti bene, Cla? Sì, quanto Natalino sta arrivando, tutti e due con l'antenna nel poggiolo, no, e tutti e due state arrivando, l'altro giorno è rimasto più basso, Cla. Ma con l'altro apparato, ho sistemato quel microfono e quel valvolare, magari un altro giorno mi dai dei controlli, sento molto alternata però, come si può eliminare? Quello sia 220, fra c'ho anche io uno a 220 così, ma fra alternata lo stesso, è il trasformatore, ormai con gli anni è andato, fra tenete usci, usa quello, questo qua e basta, capito? Già va bene. Natalino un pochino più forte il tetto, tu sei 9 rispetto all'altro giorno che di 5-6, sta stellando bene adesso. Natalino, non è entrato nessuno? Negativo, e tu Franco adesso mi senti pure? Sì, io oggi ti sento, forse perché c'è meno QRM, Scappa. No, non si è fatto vedere nessuno, se n'è andato anche Pomponius. E io per sabato oggi è Natalino. Sabato io e mia moglie e mia figlia sono andati a fare una visita a mio nipote che è all'ospedale, niente di grave, comunque ha avuto un poso alla spalla, quindi siamo ingessato e non è andato a trovare. E niente, ma io sono a casa, sono occupato del cane, adesso sono già le 8, fra un po', iniziamo a parecchiare, a fare. Tanto c'è anche la partita stasera, ci guardiamo la Juventus con Chievo, aspettiamo che faccia buio, però chi si va a Parigi in maniera allora di Yadinra. Ti guardi anche io, ti guardi. E allora, quando la guarda aspettando martedì e ci tocca la Cempio, tu non sei Juventino, chi è Juventino? Non lo so, io interista. Mi interista come Luca, sei tu. Luca interista. Allora, mitico interista di plastica, Inter cinesina, lui è tifoso dei cinesi. Io sono interista, non puoi dire forte. Buonasera a tutti, ciao Cla. Sì, interista, ma per dirmi sei interista. Lì c'è Franco, lo senti a Franco. Avanti Franco. Luca è forte, penso che sia molto vicino a me, sì, siamo interisti nel bene e nel male, siamo abituati a soffrire. Pure tu sei forte di più, arriva abbastanza forte, io sono qua al monte, dai, che siete in Canada, non so dove sei tu. Sarò 500 metri più, no, un chilometro più in basso, dai. Arrivi benissimo, dai, perché cavolo, arriva sempre bene. Quindi, là, c'ho, diciamo, minuti contatti, dai, sono salito a fare l'insulina a mamma, dopo gliela ha fatta la mia ragazza. adesso tra un po' andiamo a mangiare e poi mi tocca di risalire verso le 10:15 per fargli quella la solita, là. E poi vado un po' in un circolo da amici a bere una birra così, karaoke, giusto per passare un po' di ore, dai. Poi verso mezzanotte ce la rientriamo. E vai con cuomane. E anche con cuomane c'è. Vabbè, dai, il risotto vai. Ehi. Funziona? Ehi. Ci manca la driver. Un caso. Ha fatto morire, però uso che è riuscito. La scheda che ti ho dato io o no? O la scheda tua? Come? La scheda che ti ho dato io. Eia. Beh, la devo prendere a bene gli effetti perché è della Creative. Prova. Vabbè, con un microfono vedi un po'. Dovrebbe avere anche il, diciamo, la, come si chiama? Il, ma, la console. Cercala. E vediamo un po' se la trovo. Fai nei programmi e poi vai la trovi. Avanti. Non mi ricordo il nome attivo, l'altro che è vicino a me. Sì, Franco sono. Ecco, anche come si chiama? BMR avete voi? No, io no. Portate provare un portate, a se qualcuno sentito, ho sempre con l'antenino suo in gomma, là. No, io ce l'ho, ma ce l'ho solo in ascolto, non ci parlo, capito? Ce l'ho perché vabbè c'ho le VLU, quindi ce l'ho come radio amatoriale, ma non ci trasmetto. Se vuoi provare, prova, beh, se ti sento. Da lì col portatile già arrivano da quella zona, ma c'hanno tutte le antenne esterne. Hanno fatto i baracconi. No, io ho l'antenino suo, là. Dovrebbe uscire o con 5 watt, credo. Cos'è, di 15 inci? No, è un Polmar. Se non ti sente Natalino ce l'ha lo stesso, l'eccezione. Prova se ti sente Natalino, che siete vicini. Qua sicuramente non arrivi con l'antenna in gomma. Prova. Ma io Natalino lo ascolto molto basso, sento più forte di te, quindi non so se lui mi senta. Vabbè, Natalino c'è l'antenna dentro il vicolo, non è a vista o di tra per te. Io se ti vedo, capito? Adesso noi aspettiamo fino a mercoledì, poi dobbiamo montare l'antenna esterna a Natalino, quindi lo sentirei bene perché siete 200 metri. È che strano però che non lo senta bene allora, C'è un'antenna dentro il vicolo, proprio chiusa, non ce l'ha sopra. Capito, l'esterna ma è chiusa. Vabbè, su che canale lo chiamo? Natalino, mi senti? Eia, sono 8. Canale 8 devi mettere, canale 8. Prova se ti senti, intanto ce l'ho acceso. Vediamo se arrivi. E mai ti già siedi, però meglio. Se ce la portate al canalizzato. Franco. Prova Fra, io non sento niente. Anche io, buonasera. No, ma c'è un'antenna in gomma, un Polmar canalizzato, figurati. Non so se arriva. Fra, non intendo, non sento niente. Ciao io. Canale 8, che frequenza è? Ah, boh. Io qua c'ho 446081. Nel 475 mi sento così. Poi non so se è quello. Com'è la frequenza, Fra? 446081.5, canale 8. Punto 25. 446081.25 e vabbè mio fa 80, capito? Va 10, 5, 12, 5, non è il momento di si giocare. Ma si sta una portante adesso. Oh, e sarai l'altro di sacco te. Altre due. Va, tu sei. Ma non mi sente. Forse ti sentono i vicini tuoi, quindi hai dato dolce. Vabbè, ma fu pedine, non hai perso niente. Qual è la frequenza che provo io a sentire? Allora. Cosa? Tu hai chiamato? Qual è la frequenza che provo io a vedere? Aspetta, lo stai sovramodulando. Cosa hai detto, Fra? No, se riesco a sentire te. No, non ci parlo io di Fra. Assolutamente, no. Lascia vedere. Non ci parlo di Fra, già lo sai, non ci posso parlare io. Ti ho detto io che 4, 4. lo sento. Prova a parlare, Frank. Hai sentito il video, Frank? No, ho sentito fischiare qualcuno su quella frequenza 446. Più di uno c'è anche fischia. Non ti sentono i video, che c'è un antennino. Ma io sto parlando, io sto ascoltando. È meglio. Ciao, cazzo. E qua in 27 non ti sente, Franco, che c'è un antennino, capito? Sono lì di telefonare, come ti dici? Ah, cos'è, l'ambulanza è giungata, qua. Cos'è? L'ambulanza? No, via Milano è passata. Ah, adesso vuoi venire in casa. Non c'è questi microfoni, danno grande soddisfazione. C'è anche attento a non prendere appunto. Quelli sì, se, quelli prendono i rumori, quelli più, come si dice, quelli, sai, le puzzette anche silenziose, le prende tutte, le trasmette, va a volare, che se me le vado a mangiare. Alla prossima, ciao a tutti, ripeti tu, Cla, ciao. Ciao, Fra, ciao, bravo, oh, buonanotte. Ciao, ci sentiamo, saluta mia mamma. Ok, beh, Fra, hai sentito qualcosa? No, nulla. Elio dov'è? Elio è a Usini. Ehi, ci mancherebbe altro. Ma neanche lui mi sentirà, quindi. No, non ti sento, ricordo Elio Piuma. Non ce l'ho presente. Piuma, qualcosa mi ricordo di Piuma, boh, però non ce l'ho presente, non riesco a inquadrarlo. Se dice Anna già si ricorda. È probabile, boh. Quello modulava di più di te, c'era di più in radio, capito? Soprattutto quando era giù ai punti. Beh, ormai abbiamo smantellato tutto, poi qualche antenna ci deve essere ancora giù, mi sa, ai punti, è smontata, mi sa. Sì, qualche boomer, qualche mini grand play, qualcosa, a buono buongiorno, andiamo a fare due chiacchiere qua, ci siamo sempre, non vi sono per essere. Di mattina no, ma di sera siamo sempre, c'è una bella greffetta, siamo qua, facciamo le chiacchiere, anzi stasera è sabato, è poca gente, io Natalino, tra Tondomello, Mirio, Luca, diciamo la sera c'è sempre un po' di gente, vediamo Alghero, avanti Alghero. Ciao Giuseppe, ma non senti nessuno di quelli che stanno parlando? Senti. Sentirai a me, a Elio sicuramente, perché a Franco e Natalino è possibile che li senti. Sì, aspetta che sto girando l'antenna. Anche a Franco sentivo poco fa. Mi ascolti? Apro un po' che tiro l'antenna. Ma Franco che c'è? No, Alghero. Alghero già arriva qua, non lo dici Giuseppe. Ma già mi arrivi con la verticale, Giuseppe, se non vedi ci può, non c'è problema, aspetta, io stavo facendo girare quella motozappa. Ma se non parla? Girala da lì, cosa ce l'hai a nord, girala 300 gradi a nord-ovest, gira 300 gradi a nord-ovest, e lì lui. Lo lì, ma se non parlo non lo sento, parla un po' Alghero. Parla Giuseppe che ti deve centrare io. E vabbè, da Sassari, ma io sono a Usini, comunque è uguale, dai. Dovrei arrivarti così, dai. Boh, capisco male. No, sto uscendo, sì. Sì, si può stare benissimo. Questo 330 gradi, Giuseppe, 330 gradi. Io da qua, per Alghero, sono intorno ai 300-280, capito? 300-280 gradi, non 9, non 200. E per forza devono tornare i conti, se la matematica non è un'opinione, è così. Da qua, da casa mia, da Usini, siccome Elio c'ha l'antenna puntata verso di me, la gira anche lui a 300. A 300 gradi, 280, ti dovrebbe prendere in pieno, però la tua è sempre sfasata, anche se quella sì. No, no, negativo, non sento nessuno purtroppo. Ma allora sono in direttiva? Sì, ieri ero rimasto le colonne, sì, c'era la direttiva, vabbè, direttiva amatoriale, stavo cercando la verticale, stavo guardando se riusciva ad avere un po' più di segnale di Giuseppe, però la caratura è completamente fuori, quindi non è che riesci ad avere il massimo. Adesso mi senti, Franco? Uno parla, provare a centrarlo, dai, se si può fare. Prova a parlare, io vedo se ti sente Franco. Franco dove è? A Sosso? No, questo è Franco, è lì, via Sicilia, Sassari. Ah, allora no, mi sento, dovrebbe sentire, guarda che mi sente così. Bravo, senti. No, negativo. No, mantieni nella materia della finestra, via Sicilia, io. Sì, io lo sento, Dì parlare un po'. Adesso l'ho sentito. Hai visto, gira l'antenna, dì di parlare un po'. Adesso l'ho sentito, Elio, mi senti? No, io ti sento, sei cappa. Qua stazione Elio Piuma, number 40 della CB27. Non capisco molte parole, le perdo, però riesco a capire qualcosa, Va bene, antenna, via Sicilia, oggi è di ma lì cosa si è? No, si gira appena verso Nord-Ovest, questi 20-30 gradi a Nord-Ovest. Sì, ce l'ho a 340 gradi, dai, 350, ce l'ho solo via di Sicilia, cavolo, ci ha abitato miei parenti, miei nonni lì, una vita. Senti, no, 330 mettila, 330 neanche, sei troppo largo così. Vabbè, vediamo se mi sento adesso. Prova a far vedere se ha migliorato. Ma sarà? Se ha migliorato. Buonasera. Vediamo se mi ascolti adesso, Franco. Sì, ti ho ascoltato adesso. Il segnale è sempre zero, però riesco a accoppiarti un po' di radio. No, mi ha fatto un po' la radio così mi dovessi ascoltare meglio. Vabbè, io sto solo con un vatto e mezzo, cosa vuoi dire? Capito. Oh, Natalia, tu lo senti, Elio? Sì, io lo sentivo. Natalino, ma è più avanti. Natalino, non sai dov'è, Elio? Proprio quasi dove abitavi tu, in Corso 30. Elio, forse l'ho chiamato là. L'ho chiamato Rita. Ma dove ce l'hai l'antenna, fra? Proprio nel poggiolo, quello lato strada o quello lato interno? Lato interno, cioè, è sopra la staffa del ferro per stendere. Ho capito, fra. Sì, anche Natalino ce l'ha così. Non ce l'ha nel filo da stendere, c'è un braccio nella finestra, l'ha portata fuori, capito? Però arriva più alto di te, Natalino. Oh, Claudio? Nada. Sì, volevo un controllo da parte di Franco, come mi riceve. Da parte mia il segnale è 1, la radio è 3. Ah, addirittura, radio 3. Vabbè, l'importante è il segnale, quindi più forte d'Elio comunque. Sì, a te ti capisco benissimo, riesco a capire tutto il filo del discorso. Oh, capa, grazie, tu sei 9R5. Riprendi il radio, sono qua d'ascolto. Ma come io li sento bassi, Cla? Non lo so, perché tu il segnale ce l'hai, è come Natalino arriva da tre parti, però a volte non sente. Il sistema di antenna, ciao Gianfra, buonasera, avrei sentito il sistema proprio che avrete dell'antenna così. Tieni conto che Gianfranco sta modulando dalla zona di Canica, forse in via di Sicilia, non è che siete molto distanti. Sì, ma lui mi dà un segnale di nome, cioè io dovevo sentirlo bene anche io. Ma che antenna c'hai, fra? Boomerang, cos'è? Che c'ha lo stilo, ma è molto attaccato al muro, è a 10 cm dal muro, e più c'è il radiale sotto che, insomma, come si dice, per la pedina di massa, dai. Ho capito, vabbè, quella magari vuole direzionata da un'altra parte. Capito, perché quel radiale che c'hai è omnidirezionale. Mettila sopra un palo, invece di attaccarla così bassa, e metti un palo da un metro e la attacchi con un cavallotto lì allo stesso coso da stendere, magari radia di più. Ma sarebbe da mettere su sopra quella del televisore, è che non so se quei televisori di oggi di nuova generazione prendono sempre colpi? No, digitale. Finiti i giorni del più di volare. Deve avere proprio un problema serio. No, non disturba più. Non la puoi attaccare. Giuseppe non ce l'ha attaccata la Lamprelli all'antenna della TV. Sì, chi lo sa, un domani, dai, vediamo. Beh, se è stato così uno sfizio, una prova. Perché ho trovato questo apparecchio vecchio valvolare, mi è venuto un colpo al cuore così. Lo so, è così vecchie, siamo sempre. Io ce l'ho qualcuna, capito? Però continuo ad usare sempre questa, che è mitica ormai, è conosciutissima, e quindi uso sempre questa, però potrei usare anche una delle piccole, ma no, non ne ho mai voglia di fare. La gana ormai è passata, bravo. E Alghero ce n'è CB? Sì, già ce n'è, ma sono tutti diventati allevatori e non entra più nessuno, capito? C'è solo Valerio, Giuseppe e basta. Non entra più nessuno, Valino, sono tutti diventati grandi, capito? E Romeo c'è, Romeo di Alghero, anche lui era allevatore, non so come la sua sigla, non me la ricordo però. Romeo è il mio vicino di casa, abita qua a Carbonazzi. No, di Alghero. Romeo di Alghero, Giuseppe, questo Romeo di Alghero chi è? Romeo CB, che adesso è l'allevatore di Alghero, chi è? Impiegato e dove lavoravi tu? No, ho capito. Anche quello che sto parlando io lavora dove lavoravi tu, mi Giuseppe. Cerco di farlo capire, tu. Tu c'hai 89 anni. Quello che sto parlando io di Alghero, per farti capire, ho un tuo. Superiore mio, impressione mio fa. Ho capito il fatto perché ha detto che di Romeo, infatti Romeo era mio collega, anche lui in pensione, e si chiama Riccardo di nome, comunque l'ha inquadrato, dai. E in che settore è lui? In che settore era Giuseppe? Questo glielo chiediamo adesso, se ce lo dice. Sì. Riccardo si chiama, lo chiamano Romeo. Giuseppe, tu in che settore eri? Manutenzione era lui, però di quelli con i gradi, mi capito mi è? Giuseppe, in pensione, c'ha 88 anni, ti dice niente? Sì, ho capito, mi ricordo anche il suo cognome, mi ricordo. Chi dice inizia con la A? Il tuo cognome inizia con la A, ha detto. Hai visto, vedi che ti conosce, c'è Franco, c'è un sacco di anni, insomma, è giovane ancora, però c'è un sacco di anni lì, capite Giuseppe? Hai visto? Vi siete ritrovati tra colleghi, tra pensionati e ancora lavoratori, fra. Sì, lui è grandetto, Mi ricordo quando sono stato assunto. Noi ci eravamo andato insieme verso Surrau, verso Palau, e mi sa che l'avvicinamento ce l'ha fatto proprio lui, va. Sì, vabbè. Sì, perché anche tu sei di manutenzione, no, fra? Sì, noi siamo materiale rotabile, manutenzione ferroviaria. Quindi manutenzione ferroviaria, Franco, mi Giuseppe, no? E la Palau e il trasferimento li hai fatto tu, mi. Porca miseria, peccato che non vi sentite. Giuseppe è un grande, io sono andato a trovarlo, fra. È grande di età, ma è grande anche di cuore, di tutto, è una persona veramente squisita, ci sono poche cose da dire, veramente una persona che penso ce ne siano pochi. Sì, mi ricordo c'era un cane, mi sembra che si chiama Toto, se non sbaglio, ma ti parlo di 30 anni fa. Ah, fra. Oh Giuseppe, Franco si ricorda che c'avevi un cane che si chiamava Toto. Non ci picchiavo, vabbè. Anche Gianfranco Murru quindi era tuo collega Giuseppe. Gianfranco, per Gianfranco è pensione. Tu già l'hai conosciuto Gianfranco Murro? Sì. Oh, chiedo scusa, ma devo uscire, quindi vi saluto tutti, mi ha fatto piacere ascoltarvi tutti, dai. Mi saluti tutti, Cla, anche quelli che non sento, ok? Figurati, Fra, un abbraccio, saluta mia Anna, il ragazzo ormai sarà fidanzato. Ok, fatti sentire quando vuoi. Giuseppe, ti saluta Franco, ecco, purtroppo c'è un'antenna piccola e non ti sente, ok? Che sta chiudendo. Saluta calorosamente Fra Giuseppe, un abbraccio. Grazie, ricambio a tutti, saluta anche tu e la tua famiglia. Ciao, ciao, ciao. Ciao Fra, ciao. Natalino, perdona questo ping e pong. E io cosa faccio? E ti ricordi? Giuseppe, nel settore di Franco. E quindi mi sono ricordato adesso, praticamente era lui che dirigeva la baracca Oppulini. Va bene, va bene. Quanti anni sei in pensione, Giuseppe? Già? 1989. Dall'89, quindi hai conosciuto anche Mentatti? Diavolo, Mentatti era con me, iniziato dal primo giorno, fa parte del gruppo dei fondatori, come operaio. E io avevo organizzato tutto il sistema. Vabbè, tu eri dirigente lì. No, ci conosco tutti, io ho un sacco di amici che lavorano lì, adesso sono in pensione. Vabbè, per picco non era alle manutenzioni, mi sembra che era a capotreno. Esatto. Sì, non l'ho conosciuto vagamente io il padre, però so che lui aveva manutenzione nella squadra di Gianfranco. Gianfranco faceva molto parte elettrica, mentre Franco, quello che è andato via, è proprio si occupa proprio del binario, quella della ricapita. Mentre Gianfranco, mi ricordo, faceva molto passaggio a livelli, molta roba meccanica, elettrica, eccetera, si è inventato. E sono tutte e due in pensione. Gianfranco è stato operato da poco, purtroppo ha avuto un tumore, adesso piano piano si sta rimettendo. Ma puoi passare là, che qua magari subito.